24 mattino estate con Irene Zerbini. E benvenuti 15 minuti dopo le 7, ben ritrovati 19 agosto. Oggi in 24 mattino l'appuntamento ancora una volta con chi ci osserva da fuori. Alle 8:15 infatti andremo a incontrare i nostri corrispondenti dal mondo. Un appuntamento che caratterizza questa edizione dell'estate e ci porta poi alle 8:30 in bianco o nero. Di cosa ci occupiamo oggi? È stato dibattuto molte volte, adesso sembra ci sia addirittura, secondo alcuni studiosi americani, una prova fisiologica empirica testata, cioè internet cambierà le sinapsi, il nostro modo di ragionare. Multitasking, interruzioni continue rendono il cervello più veloce ma incapace di approfondire e distinguere ciò che è rilevante. Questo praticamente l'allarme lanciato da Nicholas Carr, lo presenterà il 2 settembre in una conferenza internazionale a Londra, uno studioso che già in passato aveva lanciato la profezia di un futuro un po' apocalittico grazie all'uso diffuso di internet. E voi siete d'accordo con Carr? Internet veramente ci sta rendendo più stupidi? Questa è la domanda di oggi. www.radio24.it per esprimere la vostra opinione. Vi racconteremo poi una storia straordinaria che viene dall'Italia all'interno di quella trasmissione. Sarà però le 8:30, prima andiamo a raccontare un'altra Calabria, insieme a Rocco Rispoli, che saluto, buongiorno, benvenuto. Pronto? Buongiorno. E insieme a Francesco Macri, sindaco di Locri, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. È stata definita l'esperienza di Locri un'esperienza positiva per rompere quei luoghi comuni, quei cliché, quell'immagine ricca di inadeguatezze che di solito si dà della Calabria. Allora facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. Innanzitutto, nel vostro municipio lavora una persona in più. Beh sì, da oggi, anzi dal 1 settembre, lavorerà una persona in più, ma credo che a parte il lavoro, il problema risolutivo del rapporto di lavoro con Rocco Rispoli, il segnale sia assolutamente di altro tipo, cioè è un segnale forte che questa amministrazione ha voluto dare a questo territorio. Un segnale forte, cosa è successo sindaco? Chi è Rocco Rispoli e perché l'avete assunto? Rocco Rispoli è una persona che per noi ha assunto una straordinaria importanza quando ha deciso di rompere un muro di omertà per sconfiggere una banda che in questa zona aveva veramente messo le mani. C'era una cappa di oppressione che si sentiva in questa città, data da questi soggetti, che Rispoli insieme a un altro ragazzo, vorrei ricordarlo sempre, a Luca Rodinò, hanno contribuito a scominare questa banda di delinquenti con il loro coraggio. Rocco dice spesso che lui non è uno coraggioso, non si sente coraggioso, ma io credo che per fare queste cose intanto ci voglia molto coraggio e poi ci vuole quello che loro hanno detto nel primo consiglio comunale aperto che abbiamo fatto quando c'è stato il problema e ancora forse non si parlava di assunzione. Hanno avuto la forza di credere nelle istituzioni, cioè di rivolgersi ai carabinieri, alle forze dell'ordine, ai magistrati, perché hanno capito che era l'unico modo per uscire dal per bar, denunciare dunque l'usura. Esatto. Rocco Rispoli, lei non si definisce coraggioso, ma ci racconti la sua storia. Era un imprenditore. Rocco. Buongiorno. Avevo gestito l'attività fallita di gestire insieme alla mia famiglia Cercheremo di risentirla tra breve, Rocco, perché è una linea telefonica che ci sta dando qualche problema. Quindi diamo a lei il ruolo, sindaco, di raccontare la vicenda di Rocco Rispoli, un testimone di giustizia assunto dal sindaco Macri. Abbiamo visto tra l'altro che è un'azione che ha dato il buon esempio, quasi avesse aperto la porta a delle procedure virtuose da parte delle amministrazioni locali. È infatti un esempio che alcuni dei comuni vicini vorrebbero emulare. Beh, ieri, devo dire con grande soddisfazione, ho ricevuto la telefonata dell'amministrazione comunale di Mazzara del Vallo, che ha detto: noi abbiamo da tanto tempo un problema del genere, cioè una persona che ha collaborato, non collaborato, ha testimoniato alle fasi inquirenti tutta più o meno la stessa vicenda che è successa a Locri, ma non sapevamo come uscirne. Questo vostro atto amministrativo ci dà la forza di andare avanti, quindi abbiamo messo in contatto con i dirigenti del comune, con gli avvocati che hanno preparato questa assunzione, e speriamo di riuscire a fare questa cosa anche a Mazzara. Certo, devo dirle che è stata una cosa abbastanza soddisfacente. Intanto c'è il vostro impegno, il vostro messaggio è quello: sostenere, e con convinzione, con un atto pratico, addirittura con un'assunzione, una persona che ha rotto la cortina del silenzio, dell'omertà. Ha denunciato i propri usurai e lei ha detto: è coraggioso, perché si rischia naturalmente dal punto di vista dell'incolumità, ma si sarebbe poi ritrovato, grazie a quest'atto di coraggio, comunque a fare i conti con delle ristrettezze economiche non facili da superare. Certo, lui era messo molto male, economicamente. Stava parlando prima, aveva un posto incredibilmente bello qui vicino a Gerace, che è un borgo medievale vicino a Locri. Lui aveva un agriturismo, veramente un bellissimo posto, che ha dovuto cedere, fra l'altro, immagino, anche a quattro soldi, a chi poi dell'usura anche ne approfitta. E io vorrei dire che il loro coraggio è quello che mi auguro che abbia molta altra gente, perché l'esempio poi dei due ragazzi è stato qui seguito, perché un'altra operazione che stanno facendo sempre le forze dell'ordine, c'è molta gente che ha cominciato a collaborare, quindi già per noi questo è un fatto importante. Una sorta di esempio che ha creato questa energia positiva. Ma vediamo se è tornato con noi Rocco. Pronto? Rocco? Buongiorno. Adesso riusciamo a sentirla bene. Dunque, lei aveva questo agriturismo. Ci racconti la sua storia dal punto di vista dell'attività professionale. Niente, avevamo questa attività che gestivo insieme a mia moglie. Ho subito delle tensioni che poi sono tremolati in misura. Il contrario è durato circa 4 anni. Nel 2007 mi sono reso conto che non sono uscito più da questa vicenda e ci ho pensato chiaramente prima di fare le mie denunce, ma alla fine mi sono deciso, l'ho condiviso da solo questa cosa e mi sono recato sulle casse dell'ordine e ai miei sindaco. Lei prima ha parlato di una banda di malviventi denunciata da Rocco Rispoli. Dal punto di vista giudiziario, qual è stato l'esito di questa denuncia? Beh, intanto ce ne sono state quasi 50 persone, fra persone indagate e persone arrestate. Per 37-38 mi pare che ci sia anche il rinvio a giudizio. Il 1 settembre incomincerà l'udienza preliminare di questo processo, denominato Sharp, fra l'altro Squali, dove naturalmente il comune è parte civile, anche perché all'inizio questa storia ha gettato ancora una volta sull'Locri il discredito, voglio dire, dei media nazionali. Io devo dire, e l'abbiamo detto insieme al vescovo di questa città, Monsignor Fiorini Morosini, che devo dire è stato uno degli interpreti poi principali di questa vicenda, che l'esempio di Rocco, già che sia seguito da qualcuno, ci fa molto piacere, ma ancora c'è moltissimo da fare, nel senso che la gente deve avere il coraggio di denunciare questi esempi per far cambiare questo territorio, che ne ha veramente bisogno. La decisione di denunciare, come ha sentito purtroppo con Rocco, è difficile parlare oggi a causa della linea, è maturata in solitudine, perché chissà che forse se si fosse confrontato con qualcuno sarebbe stato spinto ad esistere, perché spesso è quello l'alone che protegge anche i meccanismi di usura, la paura. le persone che pagano il pizzo hanno poi hanno paura, ma anche coloro che prendono denaro in prestito, e alla paura si somma a volte la vergogna di essere finito in questa rete. Credo che il suo coraggio proprio consista in questo, nel non farsi poi condizionare, perché io immagino che in questi due anni noi non abbiamo ancora chiara la, tutta la vicenda, perché è coperta dal segreto giudiziario, ma immagino in questi due anni lui abbia sofferto molto, perché qualcosa è trapelato, no? Di botte, di gente che seguiva i propri figli, li minacciava, c'è una cappa pesantissima a cui lui si è sottratto rivolgendosi alla giustizia. Su questo bisogna anche dire che Rocco è stato seguito passo passo da alcune persone eccezionali dell'Arma dei Carabinieri, che l'hanno tenuto, voglio dire, hanno cercato di non farlo deprimere più di tanto, anche se poi una forma di depressione purtroppo l'ha avuta in quel periodo. Quindi devo dare atto. È un passaggio molto comune a chi finisce nel circuito dell'usura. Beh, certo. Ma, sindaco, quanti abitanti ha Locri? Locri ha 15.000 abitanti tutto l'anno, un po' di più d'estate, e un po' più di residenti, perché poi ha appunto tutte le strutture subprovinciali, c'è cioè un corpo dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza, tutte le scuole, un ASL molto grande, ex ASL non c'è più. E come è stata vissuta, come viene commentata questa decisione sua, del comune, di dare un posto di lavoro a qualcuno che ha spezzato questo circuito dell'usura da parte dei suoi abitanti? Ha avuto... immagino la sensazione di essere bene accolto, di essere condiviso in questa decisione, ha avuto invece qualche critica, qualche protesta, qualcuno? Diciamo che è difficile oggi uscire allo scoperto e dire che questa non sia una cosa positiva, anche se qualcuno incontrato mi per strada ha detto vabbè basta pentirti per avere un posto in comune. Ha avuto anche questo tipo di commenti? Certo, però voglio dire, lascia il tempo che trova. E avete fatto affrescare, questa è un'altra pagina che riguarda il vostro comune, nulla a che vedere con questa vicenda d'usura, ma credo comunque si innesti in una sorta di modalità di gestire un comune anche in provincia di Reggio Calabria. Avete fatto affrescare la vostra chiesa da degli imbianchini particolari, chi sono? Ah sì, sono degli immigrati indiani regolari naturalmente che vivono a Locri nel territorio. È una vicenda anche lì particolare, loro questi due, anzi tre giovani indiani erano stati malmenati da gente che poi guarda caso appartiene alla stessa criminalità organizzata che aveva avversato Rocco. Una sera vicino alla stazione sono stati aggrediti da dei ragazzi molto più giovani di loro, sono stati malmenati, gli hanno rubato il telefonino, il portafoglio. Gli fai rubare a un indiano, veramente ci vuole anche lì coraggio da parte di chi lo fa. E loro hanno denunciato anche qui quei due ragazzi che avevano aggrediti. Sì. E noi ci costituiremo parte civile anche lì. Nel frattempo però loro sono venuti a trovarmi e hanno detto che volevano fare qualcosa per la città, gli sarebbe piaciuto affrescare, cristiani naturalmente, gli sarebbe piaciuto affrescare, fare qualcosa al cimitero. Abbiamo una cappella al cimitero molto carina ma molto malmessa, devo dire, anche per le nostre difficoltà endemiche finanziarie. E quindi un altro messaggio di integrazione sul territorio che arriva da Locri, provincia di Reggio Calabria. Ringrazio per questa testimonianza il sindaco Francesco Macri. Buona giornata e grazie. L'ultima cosa, pronto? Velocissimo, abbiamo 10 secondi, sindaco. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo tutto ciò perché quando siamo arrivati abbiamo visto che questo è un posto isolato dal resto d'Italia o dal resto della Calabria, se vuole. stiamo facendo queste cose per cercare di uscire in un isolamento che veramente pochissima gente a cui ci aveva costretto. Mi auguro di fare le cose giuste. Chiarissimo, grazie al sindaco di Locri. Ci sarebbe piaciuto sentire anche Rocco Rispoli, il testimone di questa storia straordinaria che dà un'immagine diversa da quella per la quale ci si occupa nei media nazionali di Calabria di solito. Purtroppo, come avete sentito, era difficile il collegamento. Un giovane che ha avuto il coraggio di denunciare gli usurai ed è stato assunto dal comune di Locri. Ancora una volta buongiorno da Irene Zerbini. Gigi Donelli, benvenuto, bentornato con il tuo pacchetto, la mazzetta dei giornali. Sì, tutto pronto, buongiorno Irene, un saluto agli ascoltatori. In primo piano oggi noi parleremo a bianco o nero di internet che addirittura modificherebbe le sinapsi del cervello. Ho sentito che parlavi di sinapsi e prendendolo dai giornali di oggi vi posso anticipare che mentre riflettiamo sull'effettivo cambiamento da parte di internet, intanto telefoni, smartphone e quindi diciamo i cugini ma già precedenti della grande rete minaccia di rovinare le ferie. Questo è uno dei tanti articoli, appunto in questo caso sul Corriere: lo smartphone del capo rovina le ferie. Ti seguiremo su tutte le testate e ci ritroviamo poi prima della chiusura per il commento finale. Ciao Gigi. In primo piano. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento dunque con la stampa quotidiana questa mattina in edicola, giovedì 19 agosto. Partiamo dai dati economici, da quelli che arrivano dall'Ocse, che il Sole 24 Ore segnala in primo piano. Ocse dunque: Germania in forte ripresa, Italia indietro, la Spagna ridimensiona le misure di austerità. Infatti la ripresa globale secondo l'Ocse è trainata dalla Germania, mentre Giappone e Italia sono i paesi con i tassi di crescita più bassa. La Spagna dunque interviene, le buone notizie permettono dai dati economici, appunto, permettono a Madrid, il governo di Madrid, di mitigare le misure di austerità già decise. Ampio spazio oggi alla battaglia all'evasione, il grande occhio vede i furbi, stretta del contrasto al sommerso, un richiamo a una doppia pagina di approfondimento sui temi dell'evasione fiscale, sui temi del pagamento del fisco, con un commento di Attilio Befera. Vi dico perché il fisco non è un nemico, e anche spiegazioni sui meccanismi che vengono messi in atto per contrastare questa che è ovviamente un malcostume ma è soprattutto un danno sociale estremamente forte e interessante. Lo spiega fin dalle righe iniziali il servizio di Dino Pesole: è quello di combattere il lavoro totalmente irregolare, quindi insomma si prendono di mira delle fasce molto specifiche. Di guerra in guerra, sempre dalla prima del Sole, la guerra del potassio e l'opo ostile su Potash. Sissi Bellomo ci racconta una vicenda che è naturalmente di grandi gruppi di controllo, in questo caso si parla di fertilizzanti, dunque Potash, potassio, il principale fertilizzante dei nuovi terreni, ma che in realtà è una grande storia del tempo presente, perché è quella delle risorse che quantomeno non si ostendono, cioè quelle della terra, e quella appunto della necessità di produrre di più da ciò che abbiamo. Ma vediamo gli altri temi, naturalmente la politica. Corriere della Sera: Berlusconi, appello ai finiani. Il Premier chiede: sostenete il governo, non tradite gli elettori, e chiede di riprendere uno a uno i finiani. Napolitano: Cossiga, fu un grande statista, dice il Presidente della Repubblica. Naturalmente in prima pagina il ricordo e anche il ricordo dei funerali privati che si svolgeranno oggi a Sassari. Prima pagina anche, come dire, fotografica, con una bella rilassante fotografia che descrive, racconta le colline marchigiane. Se l'America scopre le Marche, è infatti indicato come il nuovo paradiso per i pensionati americani. È entrato cioè tra i 5 paradisi dove andare a vivere in pensione, che è un'autorevole rivista appunto del settore e che riguarda e che ha solo di abbonati, 36 milioni circa di persone, indica appunto le Marche come un possibile nuovo paradiso. Lo smartphone del capo rovina le ferie, quello che vi ho accennato un momento fa, appunto l'incubo del controllo permanente per dipendenti sommersi di messaggi, ma anche nella prima pagina un appello a firma di Bernard-Henri Lévy, che viene ripreso da una vicenda che ci porta invece in Iran, accusata di adulterio. L'appello, dal titolo esplicito, è: salviamo Sakineh dalle pietre di Teheran. Ha già subito la pena delle 99 frustate sotto gli occhi di uno dei suoi figli. Ora Sakineh Ashtiani attende nella prigione di Tabriz in Iran la sentenza sul suo caso, fissata per il 21 agosto. È accusata di complicità nell'omicidio del marito, rischia la morte. Su questa vicenda anche tensione tra il governo appunto iraniano, tra il presidente Ahmadinejad e il Brasile di Lula. Lula infatti ha offerto, diciamo, una soluzione offrendo asilo alla signora Sakineh, offerta respinta dalle autorità iraniane, che dicono anche: attenzione al Brasile, questa è una trappola. Insomma, linea dura su questo punto, almeno fino ad oggi, del governo di Teheran. Ma continuiamo sulla politica. Berlusconi caccia ai finiani il premier, convincete una testa. Questa è l'apertura della Repubblica. A centropagina i dati economici, l'OCSE, Italia maglia nera sulla ripresa. E ancora i teenager sordi, tutta colpa delle cuffiette. Oggi immagino si continuerà, anche visto i temi di internet e delle nuove tecnologie, a parlare di mondo giovanile. Beh, questo è un altro tipo di allarme: chi perde l'udito rischia anche un deficit di apprendimento. Teenager sordi, tutta colpa delle cuffiette. Anche in questo caso al centro pagina della Stampa una fotografia appunto di un gruppo di ragazzi che ascoltano musica. La titolo d'apertura è di nuovo invece sulla politica: Fini, Letta, il grande gelo. Ora l'intesa è più lontano, è più lontana. L'ex leader di AN dice: danni al paese da chi spara sulle istituzioni. Una segnalazione sulla prima pagina della Stampa riguarda invece la Royal Air Force, un mito nei guai, Cameron in bolletta, tarpa le ali alla RAF. Il governo inglese taglia i fondi per la difesa, a pagarne le spese sarà anche l'eroica Royal Air Force, appunto eroica naturalmente, si pensa sempre soprattutto per la formidabile difesa del territorio dagli attacchi tedeschi. Ma questa è storia. Il party di Giulio, con Bossi e Tremonti si riunisce il vertice del Partito del Nord, è il riformista. Ecco, mentre la Stampa sottolinea oggi l'omaggio della politica, l'omaggio della politica naturalmente a Francesco Cossiga, ecco, il riformista sottolinea invece l'assenza del popolo. Addio senza popolo per il picconatore del palazzo. Poca gente, tanti politici, scrive in prima pagina Stefano Cappellini. Dov'è la fila? Chiede una signora arrivata al Policlinico Gemelli. I presenti, quasi tutti giornalisti e militari, le spiegano che non c'è. Con suo stupore può accomodarsi subito. Stavolta il cortocircuito non si è chiuso. All'enfasi mediatica, alle edizioni straordinarie, alle vagonate di speciali tributi TV, non è seguito il bagno di folla. Forse, probabilmente, ci sarà oggi ai funerali celebrati a Sassari, quando i sardi vorranno rendere omaggio a un uomo che anche nelle ultime lettere e testamenti ha ricordato il legame con la sua terra. E sicuramente, come dire, in questa atmosfera attinge il commento invece in prima pagina. Ritorniamo un momento sulla Stampa, di quello di Michele Ainis, che dice: l'Italia ferma nell'ingorgo degli ex. Un personaggio segnato dalle rughe si aggira per i palazzi del potere, scrive oggi appunto in prima. Non ha un nome, benché in gioventù ebbe un nome altisonante. Non ha una carica, almeno non così solenne come quelle che rivestì in passato. Non ha più lustro né energie. Tuttavia non si contenta affatto dei ricordi. No, traffica, cospira, confabula, almanacca. In conclusione, non esce mai di scena. È l'ex. Questa è la politica italiana, che trabocca di pluridecorati. E non c'è troppa differenza tra sinistra e destra, tra estremisti e moderati. Pensateci un po', con chi deve vedersela tutti i giorni il segretario del PD Bersani? Con gli ex, D'Alema, Franceschini, Veltroni, tutti lì ancora, sempre in prima fila. Ma d'altronde, quel partito ha affidato il Dipartimento Riforme all'ex presidente della Camera Violante, nonché ex magistrato magistrato, ex docente, ex parlamentare, ex capogruppo, ex presidente dell'antimafia. Siccome di riforme non ne parla più nessuno, almeno in questo caso la poltrona dell'ex è una ex poltrona. Questo dunque dialogo intorno a un tema che trascende naturalmente la cronaca, anche attraverso, diciamo, i titoli e i primi articoli di Stampa e Riformista. Altro tema importante oggi per l'Europa, oggi e non solamente, viene ripreso dalla prima pagina di Libero. Si riferisce alla Francia, naturalmente il titolo principale è sulla vicenda Fini Monte Carlo, presidente latitante, addirittura Libero oggi titola Fini si è già dimesso, nel 2010 ha guidato le sedute della Camera solo per 45 ore, ma che lavoro fa veramente? Si chiede il quotidiano di Maurizio Belpietro. Ma quello a cui mi riferivo è un taglio basso ed è Viva la Douce France che caccia i rom violenti, il coraggio di Sarkozy. Dall'altra parte, così emblematicamente opposto a questo tema, il manifesto titola Douce France, quindi stesso utilizzo di un trademark, di un modello, ma naturalmente con un approccio completamente diverso. Si parla di viltà di Sarkozy, al via la campagna anti-rom di Sarkozy, cacciati i 700 che vivevano nei 51 campi illegali smantellati, oggi il primo volo con 79 persone per la Romania, i prossimi diretti anche in Bulgaria. L'UE, Parigi dice, rispetti i diritti, mentre il Piemonte teme un'invasione zingara. Ecco, su questa distanza, mentre, come vi ho accennato dal titolo, Marco D'Eramo parla di viltà di Sarkozy e dice come se tutto il problema dell'insicurezza venisse da quei 15.000 rom che vivono in Francia, e prosegue: questa deportazione è illegale perché gli zingari sono cittadini europei. Poi conclude, dice, certo in Europa prendersela con gli zingari è sempre stato lo sport, per cui i potenti sono andati matti. E non a caso, persino un deputato del partito di Sarkozy ha paragonato la deportazione di oggi alle retate di ebrei francesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Sprigiona un rancido retrogusto di viltà da questa politica di Sarkozy. Carlo Panella invece su Libero dice: la decisione di Nicolas Sarkozy di espellere 700 rom che hanno commesso reati verso la Bulgaria o la Romania, non è patria d'origine, non è scattata a freddo, è stata decisa in una riunione del l'Eliseo. Il 30 luglio dunque Sarkozy non ha improvvisato una stretta di vite xenofoba, freddo contro i rom come appare nei media, ma ha risposto a una situazione di turbolenza sociale acuta al cui epicentro ci sono i rom. Così prosegue Panella su Libero. Le espulsioni decise riguardano tutti e solo rom in posizione irregolare, espulsi non in quanto rom ma perché hanno violato le leggi francesi. Ecco, quindi intorno a una vicenda che naturalmente ritroviamo, questa sì, su tutti i media europei, ho cercato di darvi due posizioni che chiariscono forse le posizioni più distanti, e poi naturalmente ritrovate tante sfumature in questo tema obiettivamente complesso. In primo piano. Buona dunque la situazione sulle strade. Prendo questo spunto per segnalarvi, in questo caso dal Corriere, ma lo trovate anche sul giornale, su altri giornali, il tema dei 150 all'ora. Brescia-Padova, in questo caso l'articolo di Agostino Gramigna ci racconta: saremo la prima autostrada, la Brescia-Padova a 150 all'ora. Parla è Attilio Schneck, che è presidente della provincia di Vicenza nonché della società che gestisce il tratto autostradale Brescia-Padova. Dunque, partito al contrattacco, intende avvalersi del nuovo codice e della strada e della possibilità di innalzare il tetto di velocità a 150 all'ora. Le conduzioni, ce ne sono già due di quelle fondamentali, cioè le tre corsie e l'assenza di curve. Chi conosce, e sono molti i nostri ascoltatori, quel tratto di strada sa che di curve propriamente dette non ce n'è nemmeno la traccia. Quello che invece manca per realizzare questo progetto è il completamento del sistema di tutoring, quindi i controlli tecnologici. Nato tra le polemiche, il nuovo codice della strada offre la possibilità, lo ricordo ai gestori, di modificare l'attuale limite, a patto che si rispettano alcuni requisiti: tre corsie, tasso di incidenti di auto, manutenzione perfetta dell'asfalto, raggio delle curve e soprattutto appunto il safety tutor. In tutto in accordo con Polizia, Benestare dell'ANAS. Schneck per ora può contare su due di questi requisiti: le tre corsie, le curve che manca, il resto dice faremo una riunione tecnica breve e un piano finanziario, perché il tutor naturalmente non ce lo danno gratis. Questo per quanto riguarda diciamo l'autostrade, strade, autostrade. Approfitto per ricordarvi che i limiti sono ancora al punto dove stavano, quindi attenzione a non come dire, anticipare applicazioni non previste e non consigliate. Ma torniamo invece alla politica, al sottofondo rumoroso della, appunto dello scontro politico italiano. Il giornale, il pasticcio di Monte Carlo è il titolo, lettera di Feltri ai Fignani, i collaboratori del Presidente della Camera non riescono neppure a capire quel che leggono e fanno solo confusione, scrive questa mattina Vittorio Feltri, farneticando di dossier e killer, cioè i collaboratori del Presidente, completavo la frase. Per chiudere la vicenda ci vogliono risposte, come finita la casa in mano al cognato, come è finita la casa in mano a Tugliani, dunque a che punto siamo? Sostanzialmente la sintesi viene fatta oggi anche in maniera abbastanza semplice e dal Messaggero, che ci ricorda da testimone d'accusa a testimone della difesa in meno di 24 ore. Questo è un po' l'accaduto. L'ingegnere genovese Giorgio Meretto, da 25 anni residente nel Principato e titolare di una società di trading petrolifero, che conferma che le condizioni della casa di Monte Carlo erano pietose di abbandono dopo circa 10 anni. Insomma, il giornale ieri racconta, grazie alla testimonianza di Vereno, di una visita lampo a Monte Carlo sotto Natale con le auto blu, le sirene spiegate, Gianfranco Fini, al 14 di Boulevard Princesse Charlotte, la famosa casa della discordia, che era stata lasciata in eredità alla contessa, eccetera, eccetera. Questo l'ho ricordato. Illazioni e accuse false per il portavoce del Presidente della Camera, che parla di violenta campagna di diffamatorie. Immediata la replica del giornale, l'accusa è appunto di non aver controllato e infondato. Meretto non è un pinco pallino, perché cosa è accaduto nel frattempo? Come scrive oggi lo stesso giornale, il test dice si spaventa e smentisce, ma il colloquio è tutto registrato. Insomma, dalla smentita il giornale afferma, l'ingegnere Meretto ora nega la conversazione con l'inviato del giornale sulla visita di fine a Monte Carlo. Il file audio è però disponibile sul nostro sito. La vicenda dunque continua. E a proposito di confronto, di scontro, questo politico oltre che giornalistico, approfitto per ricordarvi che oggi, ieri abbiamo parlato a lungo del, diciamo, della scelte e indirizzi costituzionali. Oggi saranno l'oggetto della puntata di 9 in punto, quindi tra poco più di un'ora, oggi condotta da Gianfranco Fabi. Insomma, la questione che di nuovo è stata sollevata, anche legata alla scomparsa di Cossiga, sul potere al popolo, le istituzioni, il ruolo naturalmente della Presidenza del Consiglio. Ecco, tutto questo oggi è il tema del nostro appuntamento delle 9. Ancora qualche titolo, il Messaggero. Ecco, il Messaggero segnalo che sostanzialmente sostiene, continua la campagna su, tra virgolette, anticorte. Non c'è nessuna campagna anticorte in questo caso. C'è evidentemente una condivisione della preoccupazione per i cortei romani, che il sindaco ha detto di voler in qualche modo tassare, si è lamentato dei costi e dei problemi. Ecco, cortei, Roma non può vivere un altro anno così, scrive oggi nel taglio centrale della prima pagina il Messaggero, dice residenti e commercianti liberare il centro. Mentre una faccenda molto più piccola ma anche drammatica, che racconta di un furto ferragostano, quanti purtroppo in questi periodi, in questo caso i ladri rubano i cimeli della Pampanini, Silvana Pampanini, 85 anni, e i ricordi di una vita che le vengono portati via in questa estate. Superenalotto agosto da record, altra vicenda, altra storia, non solo estiva. Ecco, sul Superenalotto dei record, su questa vicenda, torniamo facilmente alla prima del Sole 24 Ore, che ci racconta la grande corsa d'estate al jackpot più alto del mondo. Se tra polemiche, i veleni, gli scandali estivi, la fortuna deciderà comunque di togliersi la benda, questa sera potremmo avere una bella notizia: un super milionario in più. Già, perché in Italia abbiamo anche il Superenalotto, che in questo momento è il jackpot più alto del mondo, 116,5 milioni di euro. Ancora lontano dal record assoluto della scorsa estate, quando in questi stessi giorni a Bagnone in Toscana vennero vinti 148, vabbè, insomma, chi vince se li farà bastare, no? 116 milioni, pagine interne, immancabile gioco, perché no, del che cosa si può fare vincendo questa immensa cifra. Beh, quello, acquisti e reddite per la superficie, che cosa, per la supervincita, che cosa si acquista? 25 diamanti blu, solo 4,5 milioni, automobili, quindi l'immancabile Ferrari, direi che fa parte del pacchetto, ma il maxi yacht, che visto il clima estivo, anche se quest'estate, come dire, i maxi yacht hanno creato anche qualche preoccupazione a proprietari o utilizzatori, mi riferisco in questo modo anche a utilizzi legati, utilizzi diciamo camuffati o non chiaramente indicati in termini fiscali, ma insomma maxi yacht 6 unità da 70 metri 19 milioni di euro e naturalmente titoli di Stato con rendita annua di 4 milioni di euro. Insomma, questa è un'ipotesi raccontata da Massimiliano Del Barba su come spendere il jackpot. Naturalmente prima dobbiamo vincerlo, 116 milioni questa sera il Montepremi. Eccoci qua, ancora qualche istante, vi segnalo le qualche ultima prima pagina dall'Unità, una TV per Gheddafi, Grandi Fratelli, il Premier e il Colonnello soci in due emittenti, quindi una storia di televisioni e rapporti tra politici, capi di Stato e di Governo. Libyan Connection, il Guardian lo aveva detto nel 2009, lo ripete oggi all'Unità, tra i due un business televisivo. Per il Giorno è sfida ai Rom, Sarkozy dunque che avvia i rimpatri forzati. Liberazione, direi che è l'unico giornale che non solo dà tutto questo spazio, ma che dà una chiara evidenza alla crisi, al dramma pakistano, titolo esplicito: lasciati soli, la situazione in pieno caos, 8 milioni di alluvionati rischiano la vita. Questo è il titolo a tutta pagina di Liberazione. Un'ultimissima citazione mentre Renzo Zerbini torna in studio e quindi annuncia la chiusura del nostro appuntamento dalla Gazzetta dello Sport. Il calcio, sì, come dire, cominciano i primi movimenti, le prime partite si sono giocate, il titolo della Gazzetta è sul Milan. Boateng: caro Milan, sono il futuro del calcio, e dice somiglio a Gattuso. Vedi Irene, siamo partiti dalla Calabria e con Gattuso involontariamente ritorniamo, a volte ci sono dei Gattuso percorsi. Gattuso lo ricordo per il doping al peperoncino, dico bene? Gattuso lo ricordi credo per molte cose, i milanisti per molti successi, i suoi avversari dal per momenti duri e come si sono spenti i riflettori e come testimonia dell'immagine della Calabria che a lungo grazie per questa lettura delle testate nazionali ed oltreconfine. La rassegna stampa torna ogni mattina su Radio 24. Ora gli appuntamenti, scandiamoli, tra pochissimo le notizie e poi l'incontro con i corrispondenti stranieri che ci porterà la rubrica Visti dagli altri. Nel corso di Bianco o Nero, e vi ricordo potete votare sul sito www.radio24.it, prenderemo in considerazione le teorie di qualcuno che è convinto dei danni causati dalla sua fazione digitale e anche quelle naturalmente di chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Benvenuti tutti ancora una volta, ben ritrovati a 24 mattino. È il momento della conversazione con qualcuno che ci vede da fuori, c'è un corrispondente straniero che vive in Italia. Oggi non andremo lontano dal punto di vista fisico, nel senso che andremo appena appena oltre confine con un corrispondente elvetico che saluto. Buongiorno, benvenuto a Gabriele Fontana. Buongiorno a voi. E Gabriele Fontana fornisce le sue corrispondenze dall'Italia per la Confederazione Svizzera, questo dovrebbe essere insomma il nome ufficiale, e, in italiano, esattamente per la radio svizzera. Di cosa ti sei occupato ultimamente? Ma per noi naturalmente è stato molto importante la vicenda dello scudo fiscale che, come tutti sanno, è stata una delle momenti forti dell'attività economica e politica italiana dello scorso anno e che in Svizzera ha avuto delle ripercussioni molto dirette. E che tipo di giudizi ha emesso la Svizzera e gli svizzeri su questa operazione? Qual era il tono e il commento? Ma la Svizzera è sempre molto critica, ma non solo verso l'Italia, diciamo che questi problemi di natura fiscale, evasione, come conservare il segreto bancario nello stesso tempo adattarsi a un mondo che sta cambiando, toccano anche paesi come la Francia, come la Germania, parliamo poi anche degli Stati Uniti dove c'è stata la vicenda UBS che ha dato un po' l'inizio a tutta questa ridefinizione del ruolo del sistema bancario nel sistema internazionale. Quindi la Svizzera si è sempre sentita un po' messa sotto accusa, a volte anche discriminata come con dei controlli dei propri istituti di credito, ma forse anche questo episodio all'inizio ha creato molto panico perché si pensava che la piazza finanziaria svizzera, quella ticinese in particolare, fosse veramente minacciata. Poi adesso mi sembra che in qualche modo sia anche accettato il fatto che forse è anche un'opportunità per riflettere meglio su come si debbano integrare davvero le economie italiane, quella svizzera e quella ticinese in particolare. Ecco, forse non si sa neanche in Italia e neanche in Svizzera quanto importanti siano le relazioni economiche tra i due paesi. L'Italia è il secondo partner economico commerciale per la Svizzera dopo la Germania, è anche uno degli investitori, il sesto se non sbaglio in Italia, e questo spesso viene dimenticato a profitto unicamente dell'immagine del paradiso fiscale per evasori fiscali italiani. Quindi due paesi vicini ma che non dialogano quanto potrebbero secondo te? Beh, ecco, adesso forse c'è un'aspettativa di una ripresa, ci sono stati anche dei passi significativi, c'è stata una visita della nostra presidente Leutert a Roma dove è stata ricevuta non solo da Berlusconi ma anche dai ministri Tremonti e Frattini, si è forse inaugurato anche un dialogo più fruttuoso, ci sono stati anche degli interventi italiani a favore della liberazione di un ostaggio svizzero detenuto in Libia dal colonnello Gheddafi da un paio d'anni, sono tutte cose. Cose che sicuramente aiuteranno a creare anche un'atmosfera più costruttiva. In ogni caso penso che questo sia l'interesse di entrambi. E poi soprattutto conoscenza più approfondita, perché spesso si conoscono meglio anche i sistemi elettorali, giuridici, scolastici di paesi lontani, penso agli Stati Uniti, che quelli dei paesi confinanti come la Svizzera. Devo dire, sulla crisi politica italiana c'è sempre una incomprensione, diciamo, di questi meccanismi della politica italiana, nel senso che forse si poteva capire nel governo Prodi perché c'era una crisi di governo, visti i margini ristretti di maggioranza. Più difficile riesce di capire perché una coalizione così ampia, forte, con un partito in tutto sommato dominante come il Popolo della Libertà, una coalizione ristretta con la Lega, si ritrovi invischiato in queste lotte di potere. Nello stesso tempo però c'è anche molta attenzione a questa vita politica italiana, anche perché forse ci sono dei temi e delle cose che si ritrovano da un paese all'altro, parlo ad esempio della Lega, del fenomeno degli interessi regionali rispetto agli interessi nazionali, sono tutte tematiche che toccano, come quelle dell'immigrazione, che sono tematiche che non sono solo italiane. La Svizzera per esempio quanti anni ha? Ma anche questa è una cosa interessante, perché la Svizzera in teoria è stata fondata nel 1291 la Confederazione Svizzera, ma l'avvero Stato federale così come lo conosciamo oggi è anche una realtà dell'Ottocento, quindi l'Ottocento è stato il momento di creazione degli Stati nazionali e anche la Svizzera ha conosciuto le sue rivoluzioni liberali, la sua ridefinizione dei rapporti tra i cantoni, quindi le realtà regionali e lo Stato centrale e delle culture politiche che lì sono nate, che si sono radicate, che sono ancora quelle che sono presenti in modo determinante nel paese attuale. Parlando invece di regioni linguistiche, delle tre grandi, tedesca, francese e italiana, poi avete anche delle zone in cui si parla il romancio. Come vivono gli italiani, gli italofoni più che gli italiani, gli italofoni, la vicinanza con l'Italia? Cioè c'è un interesse particolare alla cultura italiana? Si va sui siti italiani per controllare l'attualità? Ma guarda, la situazione è abbastanza diversificata, dipende sempre dove si trova in Svizzera. Nella Svizzera italiana c'è una fortissima presenza anche delle televisioni italiane, dei media italiani, dappertutto comunque si possono comprare e leggere i giornali italiani. Ecco, forse anche per questo la funzione del corrispondente dall'Italia è proprio quella di mediazione, perché non tutti vogliono sentire mezz'ora di telegiornale italiano. Per chi non ha voglia di investire tutto questo tempo, ma vuole comunque avere un'informazione sull'Italia, sapere cosa di importante si svolge in Italia, avere qualcuno che glielo racconti in modo breve, conciso, ma comunque il più chiaramente possibile, è sicuramente, diciamo così, quel servizio pubblico che si cerca di dare. Ecco. Ti chiami Gabriele Fontana? Sì. Sei figlio di emigranti? No, io sono un figlio della Svizzera italiana, diciamo, della parte italofona della Svizzera, del Canton Ticino. La comunità di italiani emigranti in Svizzera oggi, che fisiologia ha? Innanzitutto alla cittadinanza? Ma molti sono rimasti cittadini italiani e molti guardano sempre all'Italia con interesse, sicuramente molto di più quelli che sono stati davvero immigranti, nel senso quelli che sono partiti negli anni 60, più che i loro figli che spesso invece sono cittadini svizzeri a tutti gli effetti, parlano magari molto di meglio il dialetto svizzero-tedesco che non l'italiano o che considerano l'Italia semplicemente il paese delle vacanze. Penso che la Svizzera comunque ha delle comunità di cittadini italiani che sentono ancora un forte attaccamento all'Italia, senza parlare poi di tutti quelli che vivono e lavorano in Svizzera ma che hanno fortissimi legami con l'Italia, penso ad esempio ai frontalieri che ogni giorno passano la frontiera per lavorare in Svizzera ma vivono in Italia. Se dovessi sintetizzare le caratteristiche che differenziano un italiano da uno svizzero italiano, quali sono? Forse lo svizzero italiano, proprio perché è una minoranza all'interno della Svizzera, ci tiene a mostrare il suo essere svizzero con un attaccamento a quei valori, anche forse caricaturalmente, ma autenticamente svizzeri, la precisione, anche un po' il senso delle istituzioni, dell'ordine. Ecco, l'italiano forse ha quest'arte di arrangiarsi in senso buono come in senso cattivo, nel senso che forse ha meno questo senso dello Stato, del rispetto delle istituzioni, però forse anche più questa capacità a trovare delle soluzioni a volte anche in modo creativo. Grazie Gabriele Fontana, grazie mille. Ok, buona giornata. Corrispondente, come avete sentito, della Radio Svizzera. Vivono qui, esaminano aspetti, vizi, virtù, soprattutto del sistema politico, ma non solo, i nostri corrispondenti stranieri. Il sistema politico chiaramente viene vivisezionato, spesso ritorna questa incapacità di comprensione, più che giudizi sul singolo personaggio, sono i meccanismi del sistema elettorale italiano e quando le elezioni sono così proprio dietro l'angolo e invece della convivenza in Parlamento e al governo, delle dinamiche che caratterizzano questa vita politica così particolare. Perfino per gli svizzeri, che sono decisamente i nostri vicini di casa e con i quali, almeno con una parte dei quali ci accomuna una lingua, risultiamo a volte indecifrabili. indecifrabili. Ci sono anche caratteristiche molto apprezzate da parte dei corrispondenti stranieri del vivere, dell'essere in Italia: la creatività, la capacità di risolvere con fantasia ogni tipo di problema viene spesso citata. Continueremo le nostre conversazioni, il nostro giro del mondo domani mattina alle 8:15 nel corso di 24 Mattino. Tra poco invece andremo a Bianco o Nero, il numero da chiamare se volete partecipare l'800 24 00 24, sms 349 238 6666. Cominciano già a arrivare messaggi sul tema del giorno. Abbiamo chiesto oggi se siete d'accordo con le tesi di uno scienziato americano che si è guadagnato una fama nel mondo per le sue provocazioni, anche se sembra autenticamente allarmato in questo caso. Dice che internet ci rende più stupidi. Lui si interroga sulle modifiche dei circuiti centrali e cerebrali indotti dall'uso massiccio di internet. E dunque, secondo Nicola Scare, il fatto che in continuazione si faccia del multitasking, cioè si facciano più cose contemporaneamente, il fatto sempre agevolato dal monitor, dalle email, dalla rete, di interrompere continuamente la propria attenzione, la propria concentrazione per dare spazio a uno stimolo nuovo, a un link nuovo, rende, secondo lui, fisicamente il cervello più veloce, ma incapace però di approfondire e distinguere un'informazione rilevante da una futile, diciamo così. E voi da che parte state? Allora, è una battaglia di retroguardia, è una battaglia un po' luddista quella di coloro che ogni giorno lanciano un allarme sugli effetti malefici dell'utilizzo di internet, o ci trovate qualcosa di vero? Partecipate al sondaggio di Bianco o Nero. Siete d'accordo con Nicola Scar? Internet rende più stupidi? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E buona giornata da Irene Zerbini. Diamo subito voce all'ultimo messaggio. No, signori miei, ci avverte un ascoltatore, si chiama Roy: internet non c'entra nulla con la stupidità di chi lo usa, casomai ha solo il pregio di evidenziare le possibilità di relazioni, le possibilità di espressione che prima non avevamo. E sulla stessa linea anche un altro ascoltatore, Rodolfo: internet regala euforia e ci offre maggiori possibilità. Dunque, buongiorno a Tonino Cantelmi, benvenuto. Eccomi, buongiorno. Tonino Cantelmi, attualmente dirigente psichiatra presso gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, e soprattutto ha scritto un libro che si intitola Avatar, cioè la vita digitale in questo terzo millennio. Lei, Cantelmi, è uno scienziato ed esplora questa svolta in corso, questo impatto della tecnologia sulla mente umana. Dunque, alla fine il suo giudizio qual è? Beh, che insomma siamo ad una svolta epocale, ad una svolta proprio antropologica, cioè l'uomo del terzo millennio è diverso dall'uomo di prima. E dunque, ma diverso vuol dire migliore, o lei non si spinge in giudizi di valore? Migliore, peggiore, più intelligente, più stupido? Su questo dobbiamo sospendere il giudizio. Sicuramente il più adattato, nel senso che l'homo technologicus è un uomo adattato ad utilizzare uno strumento che estende la sua mente. Voglio dire, noi quando pensiamo al computer, pensiamo al nostro computer, quel qualcosa di nostro, al nostro telefonino. Sono tutte realtà che estendono la nostra mente, estendono le nostre possibilità e al tempo stesso ci privano di qualcosa. Dunque, di cosa ci privano? Ma ci privano del pensiero simbolico, in altri termini è tutto molto percettivo, e quindi sviluppiamo meno le capacità simboliche, pensiamo in un modo diverso, siamo più rapidi, più efficaci, più efficienti, più abili nel muoverci dal punto di vista psicomotorio, ma siamo meno profondi, meno capaci di riflessioni. Insomma, l'uomo riflessivo probabilmente finirà in un armadio. 800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Cantelmi, le analisi sul comportamento, diciamo così, degli esseri umani fino a questo punto si sono susseguite una dietro l'altra. In questo caso la novità sta nel fatto che questi ricercatori, penso a Gary Small di Los Angeles, a John Sweller in Australia, questi non sono esattamente suoi colleghi, sono neurologi, hanno registrato l'attività cerebrale, servendosi naturalmente di apparecchiature simile alla risonanza magnetica. Ebbene, sembra che quando si legge un libro, per esempio, queste le loro conclusioni, si registra attività cerebrale nelle regioni associate con la memoria, però non si attiva quell'altra area che sarebbe preposta alla risoluzione dei problemi. Viceversa, chi naviga in internet a lungo sembra sappia attivare queste aree cerebrali quando va alla ricerca di una pagina, poi la scarta, poi cerca un altro link, e però avrebbe difficoltà a concentrarsi e a esaminare un soggetto nel profondo. Lei ci crede a questa fotografia? Crede che proprio fisicamente le nostre sinapsi stiano cambiando? Sì, io credo che il cervello stia cambiando oltre che la mente. Il cervello cambia, tra l'altro, i nostri nativi digitali, cioè coloro che sono stati immersi nella stimolazione digitale fin da piccolissimi, secondo alcuni studi asiatici, sono già diversi nel cervello, hanno alcune aree più sviluppate e altre meno, perché le utilizzano in un modo diverso. Dunque siamo proprio ad una svolta antropologica, cioè il cervello cambia. L'uomo del terzo millennio sarà un uomo molto rapido, molto efficace nell'associare risoluzioni di problemi, ma molto meno simbolico. Insomma, le cose stanno cambiando e forse non ce ne accorgiamo neanche. E ora vogliamo raccontare una storia che viene dal mondo della scuola un'altra volta. Lei, Cantelmi, ha sospeso il giudizio, ha detto non possiamo dire se quest'uomo, questo essere umano che stiamo creando è più o meno stupido, e quindi è un male, è un bene l'utilizzo massiccio di internet, per esempio nelle aule scolastiche. E do il buongiorno e il benvenuto a Luca Piergiovanni. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Lei è il professore dell'anno, ha ricevuto questo premio. In che classe insegna? Io adesso attualmente sono uno dei tanti precari, quindi diciamo che non ho alcun incarico, però a settembre spero di poter tornare dietro una cattedra. Però l'hanno contattata all'estero per insegnare grazie al suo metodo innovativo. Da dove ha ricevuto la telefonata? L'invito è arrivato da Roger Schenck, che è stato psicologo e informatico all'Università di Yale, e lui ha creato là dei centri di apprendimento per i ragazzi basati sul fare, su una didattica attiva, la quale lo studente è protagonista del proprio sapere, della propria conoscenza, e si fa anche di uso di internet, ma è un uso positivo, critico. Ed è quello che poi faccio anche con i miei studenti. E che l'ha portata al conseguimento di questo premio. Il paradosso è il nostro professore dell'anno, l'avete sentito, è in realtà un disoccupato, cioè non si sa se riuscirà ad avere una cattedra, è un precario. Lei cosa insegna? Che materia insegna? Io insegno italiano, storia e geografia alla scuola media. Italiano, storia e geografia, e lo fa utilizzando anche internet? Sì, certo, perché io parto da questo presupposto. Come diceva prima il collega, oggi si parla di nativi digitali, cioè non ragazzi, come si tenderebbe a essere portati a pensare, che sanno utilizzare al meglio la tecnologia, quello no, ma ragazzi che sono immersi nella tecnologia. E allora, se la scuola vuole essere più vicina al loro mondo, deve per forza di cose prendere in considerazione questo aspetto. Poi, secondo me c'è anche un'altra ma cosa. Molti suoi colleghi non sono d'accordo con lei. Oddio, l'ha notato? Alcuni sono incuriositi, si informano e via dicendo, e altri sono molto scettici. Cioè, dicono però, per esempio, che Pascoli e internet non hanno nulla a che vedere, sono proprio mondi che non comunicano, e se ami uno non puoi amare l'altro. Sì, però vedi, secondo me è sbagliato, perché io dico sempre, un insegnante non deve cambiare il proprio stile di stile di insegnamento, per carità, però le strategie sì, cioè se all'insegnamento di un certo concetto ci si può arrivare attraverso altre strade che coinvolgono gli alunni fanno scattare il loro un apprendimento significativo, no? Che è quello che tutti noi ricerchiamo, autentico. Perché non utilizzarle? Perché non utilizzarle? E dunque lei ha creato questo sito, si chiama chocolate3b.podomatic.com, dedicato a progetti di podcast didattico. E per questo lei ha ricevuto tanti riconoscimenti, addirittura è stato contattato da Yale, poi ci dirà che intenzioni ha su una sua eventuale trasferta, se perderemo anche questo cervello, chi lo sa, non solo i ricercatori dell'università, adesso perfino gli insegnanti delle medie. Intanto però sentiamo qualcosa estratto dai suoi podcast didattici per capire meglio che cos'è. Lo stesso Vecchioni nell'intervista ci ha detto che la sua canzone è malinconica e che ci abbinerebbe bene da una poesia decadente, romantica. Certo, è vero, ma noi questa volta, anziché lavorare sul discorso dell'amore, di un amore struggente, romantico, fatto di tempeste e passione, abbiamo preferito fare un discorso diverso, incentrato sul ricordo, perché in fondo la poesia di Pascoli si basa sul ricordo, quello che lui si ricorda quella mattina dell'inverno. Giusto, quindi Ale, un ricordo che affiora quando nel presente trovi una sensazione, oppure vedi in qualcosa che mentalmente ti porta ad associare un evento del passato. Beh, è straordinario, quanti anni hanno queste voci che abbiamo sentito? I ragazzi qua hanno 13 anni. E stanno parlando di Pascoli, sì. Guarda sì. Caso, e tracciando un parallelo. Sì, poi la cosa bella è che per recitare bene le poesie hanno iniziato ad imparare la memoria, cosa che io non gli avevo assolutamente chiesto. Ah, lei non l'aveva chiesto, è stata una conseguenza di questo lavoro. Pascoli e Vecchioni, qual è il punto di contatto? Lei che è professore di italiano, l'abbiamo sentito in questo podcast, così accennato. Guardi, le affinità, partiamo diciamo da cantanti e poeti che trattino le stesse tematiche, e comunque è tutto quanto un pretesto per avvicinare i ragazzi alla poesia in questo caso specifico. Al punto da spingerli addirittura tramite Punto da spingerli a tornare di pomeriggio a scuola, pensi lei, sono andati dal preside a chiedere se potevano tornare qualche ora di pomeriggio per approfondire questo progetto. Mi sembra un risultato straordinario, ci torneremo tra poco. Cantelmi, lo psichiatra, è ancora con noi? Sì, sì, ma ha ragione il sentito. Professore. Sì, ha ragione il professore, nel senso che non possiamo non governare un processo di cambiamento così feroce e così formidabile come quello che sta avvenendo, semplicemente rifiutandolo, quindi dobbiamo necessariamente governarlo, cioè introducendo elementi critici nell'utilizzo della tecnologia digitale, che è fantastica e nessuno ci vorrà rinunciare. Bello, molto creativo questo, non posso definirlo esperimento perché ormai è una procedura consolidata per questo professore Luca Piergiovanni, che ci auguriamo avrà anche una cattedra. In che provincia insegna lei? Professore? Sì, io insegno nella provincia di Como, però sono toscana, come noterete dal mio accento, ma come tanti mi sono dovuto trasferire. E sentiamo anche le esperienze, le impressioni dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Michele, pronto, buongiorno. Buongiorno, io il mio intervento che volevo fare era legato non tanto a internet, perché secondo me non è tanto internet come mezzo. Io a livello aziendale ho più o meno le stesse possibilità che mi vengono rese disponibili dall'azienda, che sono delle chat, delle specie di blog e la posta elettronica, poi c'è il telefono, insomma. Sì, li conosciamo questi strumenti, immaginiamo. Io penso che sia tutte queste cose rendono stupidi se non sono utilizzate bene, o comunque uno a certi momenti è costretto a utilizzare tutto contemporaneamente, e questa cosa perde in qualità, perché uno perde la possibilità di avere del tempo per pensare a quello che vuole effettivamente fare. Cioè il bombardamento digitale, lei dice. Sì, non penso intanto internet. Secondo me internet è una cosa. Non è internet, ma è il carico di lavoro che forse si è costruito anche e si immagina possibile nel mondo del lavoro di oggi rispetto a una volta. Lei cosa fa, Michele? Di cosa si occupa? Io sono un analista programmatore, diciamo, ecco. E quindi conosce a fondo i mezzi di cui stiamo parlando. Mi occupo di, cioè, lavoro con internet da parecchi anni, magari non a livello approfonditissimo, però appunto io penso che sia una straordinaria possibilità. non siamo capaci di governarlo. Secondo me servirebbe qualche insegnamento che ci insegnerebbe a dare le giuste priorità, cosa che forse la scuola potrebbe aiutare in questo senso. Grazie a Michele. Non la pensano esattamente come lui, comunque, i nostri ascoltatori. Infatti, pensate che i risultati del sondaggio danno un sì al 42% a questo punto, cioè la domanda, chiaramente provocatoria, tratta dalle teorie di Carr, internet ci rende più stupidi, sta rispondendo sì il 42% di coloro che si sono collegati al sito. Continuate a farlo, www.radio24.it, per votare. Marco, intanto in linea all'800 24 00 24, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo portare quella che è un po' la mia esperienza di internet fin dagli arbori, diciamo, del lontano anni sì. 90, 95. Dunque, io mi sono sempre occupato di siti internet e ho collaborato con diverse aziende che si occupavano, diciamo, del sociale e utilizzo di internet col sociale. Dunque, quello che io dico è che non è che internet rende stupidi. Internet ovviamente è un mezzo, è l'utilizzo di cosa facciamo del mezzo che discerne se sarà una cosa stupida o una cosa intelligente. Per esempio, lei cosa ne ha fatto? Cosa intende quando dice aziende che utilizzavano internet nel sociale? Per esempio, come punto di incontro di molte realtà, per esempio internet è in grado di mettere in correlazione, tramite appunto dei forum, dei blog, che è quello il motivo per cui sono intervenuto, era parlare di blog, che sono un'estensione, diciamo, un'estensione digitale di quello che era il vecchio caro diario, secondo me, nel quale ognuno proietta, in cerca di consensi naturalmente, consensi o di opinioni, quelle che sono le proprie esperienze personali del quotidiano. C'è gente che lo fa per denuncia, ad esempio vedo il blog di Beppe Grillo, per intenderci, parlando dei più famosi, altri blog molto personali di semplici ragazzini. Quindi offre altre opportunità. Grazie a Marco, un altro che voterebbe no alla domanda internet ci rende più stupidi. Laura, pronto? Pronto? Sì, ci buongiorno. Sono. Pronto? Sì. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dunque, la mia opinione è questa. Internet, premesso che internet è una cosa fantastica, favolosa, che può dare mille risposte, mille cose, può rincretinire se ne fa l'uso che si faceva agli albori della televisione. Cioè, agli albori della televisione la gente si incontrava, si raccontava delle cose e diceva: l'ha detto la televisione, cioè come dire, l'ha detto il Vangelo, l'ha detto Dio. Allora, se si fa questo tipo di uso, allora internet può rincretinire. Se invece si sa cercare e si fa anche la debita tara su quello che si trova, allora è un mezzo in più. Grazie. È un mezzo meraviglioso. Grazie a Laura. La TV, una volta si pensava fosse la causa di tutti i mali, si sposta forse sempre l'obiettivo su un altro nemico in queste campagne che alcuni hanno definito di retroguardia. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. E dunque, è una grande possibilità, questo sto leggendo in un SMS, ma la rete, specie alle generazioni televisive, i media sequestra profondità intellettuale che esige pause riflessive, concentrazione e solitudine. Internet ci sta cambiando il modo di pensare, sostiene qualcuno, anche se molti dicono no, è una battaglia luddista, siamo sempre gli stessi, dipende dall'uso che se ne fa. Ci sono sempre state grida d'allarme quando si è affacciata una nuova tecnologia sul pianeta, insomma, niente di nuovo. Internet però non si è affacciato ora sul pianeta e continuano questi messaggi così che invitano a volte anche non all'abbandono, ma a un utilizzo che sia guidato e a volte addirittura intermittente, interrotto. Tonino Cantelmi, lei parla di situazioni estreme nel suo avatar. Sì, comunque devo dire che Marco, Michele e Laura che sono intervenuti sono tipici rappresentanti della generazione di mezzo, cioè persone non ancora native digitali, quindi con una testa predigitale, che fanno un uso parzialmente predigitale della tecnologia digitale, quindi insomma in qualche modo non ne avvertono, ne avvertono tutta l'ambiguità, ma non ne avvertono il cambiamento colossale. Cioè il nativo digitale ha una testa diversa, la tecnologia diventa un ambiente da vivere, un ambiente da frequentare, un ambiente che costruisce nuovi mondi cognitivi, personali, emozioni, sensazioni, quindi ricostruisce il mondo della persona. Ecco, questo noi non riusciamo a capirlo, mentre diventa fondamentale governare questo cambiamento, cioè essere presenti. I casi estremi che io descrivo nel libro sono, come dire, quelli che più ci hanno incuriosito. A noi ci incuriosiscono le persone che fanno un uso spropositato della rete. Per esempio, ci sono persone che cercano soltanto informazioni inutili, continuano a cercare tante informazioni inutili. Che dire di queste persone, o quelli che vivono tutto il travestitismo possibile in rete? Insomma, ci sono tante situazioni estreme interessantissime, ma che solo rappresentano, come dire, l'uso disadattato della rete. Ah, quindi lei lo definisce disadattato comunque? Beh, cioè nel senso, sono persone molto molto adattate nella rete, dei veri campioni. I nostri pazienti che con i loro avatar hanno imperversato in rete erano dei veri campioni, soddisfazioni in rete, ma totalmente incapaci di vivere la vita reale. Per esempio scambiare il giorno con la notte, uscire, avere degli amici, andare a scuola, prendere la patente. Insomma, non erano immagino per questo finiscano da voi psichiatri. Sì, però questi rappresentano, come dire, una sorta di campanello, cioè ci fa capire che qualcosa sta cambiando. Insomma, se una tecnologia è così potente da catturare totalmente una persona, qualcosa significa. Senta, ma non si lanciavano questi appelli al timore della nuova piattaforma, della nuova tecnologia, anche in occasione della televisione? Qualcuno addirittura giudicò come demone la possibilità di stampare dei libri tascabili, cioè il libro doveva essere quello elegante, rilegato. Non è un'operazione un po' di esorcismo di massa che si fa sempre verso il nuovo che avanza? Qualcuno lo fa, ma in realtà quello che stiamo dicendo è un'altra cosa, cioè la tecnologia non ha cambiato la natura dell'uomo. Noi pensiamo che invece la tecnologia digitale cambia il cervello e cambia anche la mente, e questo già lo stiamo vedendo. Cioè, i nostri nativi digitali, ha ragione il professore, non studieranno più come abbiamo studiato noi, cioè pensando, riflettendo. È tutta un'altra faccenda. In qualche modo dobbiamo salvare qualcosa, cioè voglio dire, sarà bellissimo avere 150 amici in Facebook, ma sarà bellissimo se la stessa persona poi è capace di incontrare e prendere una birra con un amico la sera. Allora avremo una perché categoria. Una cosa esclude l'altra? Ecco, il problema è quando una cosa esclude l'altra, cioè quando una persona o non utilizza più la tecnologia digitale oppure la utilizza troppo. In altri termini, questi saranno i disadattati del terzo millennio, tutti i tecnofobi o i tecnodipendenti. Però la maggior parte delle persone dovrà imparare a vivere su due registri, quello reale e quello digitale. Farà questo è l'adattato del terzo millennio. Voglio ritornare al professore dell'anno, Luca Piergiovanni. I suoi giovani, li abbiamo sentiti, hanno 13 anni, hanno 12 anni. Sì. Secondo lei hanno una mente diversa dei coetanei di qualche generazione precedente, quelli che si trovava sui banchi prima? Sì, ma sicuramente tutto quello che è stato detto finora è vero, ed è proprio per questo che io dico che allora l'insegnante oggi si trova a far da guida a questi ragazzi molto di più rispetto al passato. Cioè questa tecnologia ormai non la possiamo rifiutare e non sarebbe nemmeno giusto, e quindi bisogna aiutarli ad usarla bene. Io volevo condividere con voi un aneddoto che ci ha raccontato qualche giorno fa Clyde Shirley, che insegnerà all'Università di New York, perché oltre a parlare di poesie e canzoni facciamo anche interviste ai grandi esperti nel mondo di tecnologie dell'apprendimento. E lui c'era. Quando lei dice facciamo interviste, intende lei e il suo gruppo di ragazzi? Certamente. Noi siamo, le trovate in rete, se andate su questi podcast didattici curati da questo professore italiano, sono tra i più cliccati tra i podcast didattici di YouTube. Sì, e quindi Clashiki ci ha raccontato giorni fa, appunto, ha raccontato ai miei ragazzi questo aneddoto, il fatto che lui si trovasse una sera in casa di un amico e a un certo punto la sua bambina è andata dietro la televisione e loro, così sorpresi, le hanno chiesto: ma cosa stai facendo? Lei ha risposto: sto cercando il mouse. Cioè ormai anche un bambino di 4 anni lo sa che il mezzo ti deve includere. Cioè un tempo noi eravamo tutti utenti passivi, no? Come si diceva anche poco fa, di fronte a media tipo la televisione. Oggi invece con internet possiamo diventare, e poi lo siamo anche a nostro malgrado, degli utenti attivi. Cioè la rete ha un potenziale creativo enorme, noi possiamo fare tantissime cose. Pensate che noi, per dire, però secondo lei è importante non lasciare soprattutto i giovanissimi soli. No, quello no, assolutamente. Io parlo di un uso didattico di internet, cioè l'introduzione la di guida. Internet tra le aule, nelle aule di scuola, che oltretutto poi è un mezzo a costo zero, perché tutte le scuole ormai possono dotarsi e sono già dotate di un computer con il collegamento internet, quindi un uso didattico, creativo. E noi abbiamo creato ad esempio una radio europea alla quale hanno già aderito 9 nazioni, e cosa accade? Che tramite Skype i miei ragazzi entrano in collegamento con questi studenti polacchi, rumeni, francesi e via dicendo, e si scambiano, sono esperienze di vita. Ma sostengono i critici, non possono sostituire la profondità di pensiero della lettura di un libro, lei è d'accordo? Ma anche in questo, ad esempio, è tanto che circolano in reti web queste, cioè delle griglie per poter far ricerca. Allora io ritorno all'assunto di prima, cioè al fatto che le stesse cose che si fanno a scuola, quindi insegnare ai ragazzi ad esprimersi bene, a scrivere bene, eccetera, eccetera, si possono fare attraverso altre strade, altre vie. La ricerca, perché no? Si può fare attraverso internet, il rigore scientifico, la precisione, cioè il raccogliere informazioni, rielaborarle. Insegniamola ai ragazzi attraverso internet, che è un mezzo che conoscono bene e che comunque li coinvolge, li appassiona. Poi tutto quello saranno capaci di trasferirlo in una ricerca in biblioteca. Davide, professore, torneremo da lei tra pochissimo. Davide, pronto? Abbiamo in linea dalla provincia di Bari. Dica. Pronto, buongiorno. No, la mia conoscenza è questa: internet è o bianco o nero. Bianco nel momento in cui l'utilizzo è fatto in modo corretto, è fatto da persone che hanno conoscenza di internet, la stessa, e il nero è che purtroppo internet è una moda, e come tutte le mode è nelle case di tutti quanti, per cui l'utilizzo viene fatto a volte in maniera sbagliata. È una moda dunque, secondo lei? Non è un'opportunità? No, è un'opportunità nel momento in cui sei a conoscenza di quello che hai nelle mani, no? È come se io ho una macchina con tanti accessori, però non so utilizzarla. Ma è una moda dannosa? Non è dannosa, però rende meno liberi. Rende meno? Meno liberi. Quindi l'internet che ci imprigiona. Grazie per aver inserito anche questo elemento importante di riflessione. Stefano, pronto? Sì, salve, buongiorno. Riporto un po' quella che è la mia esperienza. Io ho iniziato gli studi e disegnavo su un tecnigrafo a mano. Ora sono ingegnere meccanico, sono direttore tecnico, uso gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, quindi sfrutto la tecnologia nelle sue massime potenzialità. Credo che non ci si possa fermare e pensare di non dover sfruttare, perché diventa un dovere quello di sfruttare la possibilità che ci danno le tecnologie. È chiaro che, come ogni cosa, dobbiamo essere educati al suo utilizzo. Prima lei diceva che c'era discrepanza tra quelle che erano i risultati degli SMS che ricevevate e quelle che erano i toni delle telefonate. In realtà non credo. Credo che un po' tutti potremmo dire che adesso, fino ad ora, abbiamo subito la tecnologia, quindi internet, grazie alla scuola, grazie ad altre realtà come quella del professore, ci stiamo educando per poter utilizzare questa tecnologia e non subirla. Penso grazie. Che qui sia la chiave di volta. Grazie Stefano, dunque stiamo entrando in una fase nuova anche di consapevolezza dell'utilizzo di questa tecnologia. Sono messaggi, come avete sentito, piuttosto univoci. È l'eccesso a danneggiare, l'essere prigioniero, lo chiedo allo psichiatra, che significa essere prigioniero? Non riuscire a spegnere, controllare le email 40 volte al giorno, come sottolinea Nicolas Carr. Intanto bisogna dire che la prima mail fu mandata 40 anni fa, cioè internet non è una realtà. Esatto, non è una realtà recente, pur ancora spaventa. Solo che oggi è diventato un ambiente da vivere, e quindi come tale, se è l'unico ambiente che noi viviamo, purtroppo ne siamo prigionieri. Se è l'unico modo per fare amicizia, ne siamo ancora più prigionieri. Insomma, in qualche modo dobbiamo sapere. Chiarissimo. Professor Luca Piergiovanni, allora ci lascerà e andrà a Yale portando con sé questo patrimonio, ce lo dica in 30 secondi. Sì, 30 secondi. Ah, no, al momento con Roger Schenck così siamo accordati nell'elaborare insieme, e vedete anche qui, per dire la forza, le opportunità che ti dà internet, e quindi così elaborare insieme online questi progetti. sono molteplici i software che ti permettono di lavorare. Quindi rimarrai in Italia, anche se a causa dei tagli imposti nella scuola, non si sa se quest'anno questo straordinario professore avrà una cattedra. Grazie dunque a Luca Piergiovanni, premiato come professore dell'anno per la piattaforma didattica che ha creato, e poi è rimasto tagliato, diciamo così, la sua situazione è piuttosto paradossale, emblematica dell'Italia che non riesce a premiare la meritocrazia. E grazie a Tonino Cantelmi, dirigente psichiatra degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e autore di Avatar. Da Irene Zerbini l'appuntamento è domani mattina alle 7:15 con 24 Mattino. Buona giornata.